As railhead towns feel the steel mills rust, water froze in the generation. Clear as winter ice, this is your paradise. There ain't no need for ya. There ain't no need for ya. Go straight to hell, boys. Go straight to hell, boys. Wanna join in a chorus of the Amerasian blues when it's Christmas out in Ho Chi Minh City? Kitty say, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa Sam, take me home. See me got photo, photo, photograph of you and Mama, Mama, Mama Sam, of you and Mama, Mama, Mama Sam. Let me tell you about your blood bamboo kid. It ain't Coca-Cola, it's rice. Straight to hell, boy. Go straight to hell, boy. Go straight to hell, boy. Go straight to hell, boy. Oh, Papa Sam, please take me home. Oh, Papa Sam, everybody, they wanna go home. So Mama San says, you wanna play mind craze banjo on the druggy drag ragtime USA in Parkland International. Hey, junkie dumb USA, where procaine proves the purest rock man groove and rat poison. The volatile Molotov says, viratevi, viratevi, viratevi. Sono Alex Fotti sullo streaming di radiovirus.org. Oggi è un sabato di quest'ennesimo unweekend ed è proprio il caso di dire viriamoci, perché i provvedimenti di lockdown, di quarantena, saranno prorogati per altri 15 giorni. Insomma, è fottuta Pasquetta, è fottuto anche il mio compleanno, molto meno importante. Insomma, speriamo di farci il primo maggio in mascherina fuori. Comunque, le cose si muovono, io resto a casa, ma, come dice il tweetstorm di Non Una Di Meno andato in onda oggi, io resto a casa, ma proclamo il diritto al reddito universale, il diritto di quarantena, lotto per esso. Finalmente pare che nelle sfere governative qualcosa si stia muovendo per estendere il reddito di cittadinanza a tutte le persone che hanno perso il reddito a causa del Covid. E poi il primo aprile, cioè fra pochissimi giorni, il rent strike globale, lo sciopero degli affitti globali, perché se non ci pagano non possiamo pagare gli affitti e non li pagheremo. Sciopero degli inquilini di tutto il mondo, il primo aprile, dall'America di Montreal e New York all'Europa di Milano, Parigi e Berlino, quindi Madrid, Barcellona, insomma tutte le città che amiamo, che sono quarantenate oggi. Quindi rent strike il primo aprile. Bene, insomma, in questo sabato a Milano Nord io volevo fare un annuncio di progresso sociale, ricordarvi le brigate volontarie per l'emergenza che sole a Milano oggi sul territorio danno assistenza a tutte le persone chiuse in casa, a tutti i cittadini vulnerabili e i non cittadini che se ne frega, a tutte le persone vulnerabili che hanno bisogno di soccorso, di dispositivi di protezione, di farmaci e hanno bisogno di essere testate, temono di avere il virus, eccetera eccetera. Allora, qui di fronte a me sulla mio feed Facebook c'ho la cartina di Milano divisa per zone, pardon, municipi adesso si chiamano, e vi dico i nomi di tutte le brigate. Dovete chiamare lo 020202, sì, il numero del comune, si appoggiano ad Emergency e collaborano insieme a un presidio territoriale di sanità pubblica che oggi non esiste e che questi volontari portano avanti. Quindi abbiamo nel municipio 1, che ci frega meno di tutti, la brigata Osvaldo, però della brigata Osvaldo ci frega. Nel municipio 2 abbiamo la brigata Lena Modotti, 2 zona città studi, Parco Bassetti insomma. Un'altra brigata a noi molto cara è la brigata Ardita del municipio 7 a Giambellino. Poi abbiamo la Norina Brambilla al municipio 6, al municipio 5 brigata Giulio Piaggio, qui è Sud, Lodi, Corvetto eccetera. Municipio 4 la brigata Ho Chi Minh e al municipio 3 la brigata Shighera, da non confondere col circolo Shighera che invece sta in Bovisa. Li abbiamo detti tutti? No, c'è il municipio mio, cioè il 9, Milano Nord, brigata Lia, e c'è il municipio 8, la brigata Ghepesimi. Allora, brigate volontarie per l'emergenza, embrione di futura umanità. Siamo qui a eviratevi, radiovirus.org, per passare insieme a voi un quarto d'ora di commenti, idee, dibattiti, suggestioni. Ora faccio una pausa e sarò presto di nuovo con voi. Ciao! Show they care makes me want to say it's a beautiful world. E viratevi, e viratevi, e viratevi, qui Alex Foti su radiovirus.org. Ebbene, l'altro ieri, questa trasmissione va in onda un giorno sì, un giorno no, alle 5, avevamo notato come l'Europa si trovasse un bivio e come stesse a Macron convincere la Merkel della necessità di un Covid bond, di mutualizzare il debito in Europa per venire in soccorso all'Italia, alla Spagna e alla Francia anche, ovviamente. Ebbene, oggi sul Corriere altri quotidiani intervista Macron che ribadisce la necessità dell'Eurobond. Va detto però che il Consiglio europeo ha fatto cadere le braccia anche al più grande europeista della terra, fra cui Prodi e Delors, tanto per dire, nel senso che i tedeschi e gli olandesi si sono rifiutati di concedere nulla su questo punto e hanno rinviato al MES, cioè il meccanismo di stabilizzazione del debito, che però pone sotto tutela gli stati, sotto la tutela dell'Eurogruppo, su cui, che già la Grecia conosce benissimo. Quindi la cosa incredibile è che la Merkel, a dispetto di tutti gli altri che si sono fatti vedere in videoconferenza, ha messo solo una sua foto fissa, ha parlato in tedesco, facendosi tradurre, e ha detto che si usa quello che c'è. Anzi, ha ripreso Conte, che era stato, cioè, che aveva avuto accenti di passionali, insomma, vista l'emergenza sanitaria in cui ci troviamo, per chiedere l'aiuto europeo. Eppure tutto, si è deciso di rimandare tutto a fra un paio di settimane addirittura, cioè una cosa allucinante. Insomma, quindi l'Europa soffre, l'Italia soffre ancora di più e i precari soffrono più di tutti nell'emergenza coronavirus. Adesso passiamo a commentare, come ormai è usuale, il Twitter feed di queste ore. Il primo è Riders por Derechos, che ci fa vedere la prima del Levante, il giornale valenciano, dove ci sono due fattorini, uno di Uber Eats e l'altro di Glovo, con la mascherina, molto giovani, e che dicono: non le importamos a nadie, non frega di niente di noi a nessuno. Continuiamo, pardon, burp. Ed ecco, da Rent Strike Stay Home, Canada, annuler les loyers, annullare gli affitti, cancellare l'affitto, ovviamente essendo il Canada bilingue, soprattutto Montreal. Quindi il primo aprile, Rent Strike. Uno striscione da un ponte a Milwaukee: if we can work, we can't pay, rent strike. Lo dicevamo prima, se non posso lavorare, non posso pagare, rent strike, sciopero degli affitti. Dalla limonaia di Pisa: io resto a casa, ma lotto per un reddito di autodeterminazione, il blocco degli affitti subito e l'accesso alla salute per tutte e tutti. Per rompere il ricatto della povertà intensificato dalla quarantena, io resto a casa ma lotto tutti i giorni. Niente, appunto, Provenzano del PD che apre a reddito di cittadinanza. Qui c'è una precaria che posta un meme, un palazzo che sta mezzo crollando, puntellato da barre d'acciaio. E i palazzi sono la sua salute mentale durante la pandemia del Covid-19. E sotto i puntelli sono i miei amici del sindacato, pals from my union. E adesso dice: sento l'amore dei miei compagni al momento, grazie per la vostra gentilezza e solidarietà, quando tutto questo sarà finito non mi scorderò certo di voi, love to all of you. E niente, in America, che ormai è campione di contagi, il problema è che la sanità è legata al posto di lavoro, il che significa che con il licenziamento c'è una sentenza di morte. Bernie Sanders lo ricorda: this is an international disgrace, we need to make healthcare a right. È una disgrazia internazionale, dobbiamo fare dell'assistenza sanitaria un diritto, dobbiamo estendere il Medicare a tutti. Niente, come a Bergamo, anche a Milano è stato requisito l'hotel Michelangelo, negli alberghi saranno quarantenati malati di coronavirus o gente in attesa di diventare negativa e quindi non essere più contagiosa, anche se per dopo il test negativo, ho letto oggi su The Download di MIT, e anche New Scientist l'ha confermato, you continue to shed virus for 10 days, I think. Quindi dopo il negativo ti consigliano, anche se saresti libero di uscire, ti consigliano di praticare il distancing. Ora sapete che il distancing è 1,80 m, è 85, 82, perché in effetti è 6 piedi. C'è la distanza, questa media misurata col sistema assurdo anglosassone, quindi che però si presta a una bella battuta, una vignetta di humor macabro che dice: se non vuoi tenere la distanza di 6 piedi, finirai 6 piedi sottoterra, in inglese, cioè 6 feet under o 6 feet apart, 6 foot distance o 6 feet under. Che è appunto il nome della fortunata serie sulla Funeral Home Los Angelena. C'è tutta la questione ovviamente di quali saranno i settori più colpiti dalla crisi, ma e soprattutto di questo un po' si è già discusso in rete eccetera, ma soprattutto laddove certe città sono specializzate nei servizi alla persona, nel turismo, nell'entertainment, Las Vegas per esempio, come ciò causerà una desertificazione paragonabile alla deindustrializzazione degli anni 80 oppure alla grande recessione che ha distrutto interi distretti industriali e ha reso diverse città ghost town. Insomma, viva Las Vegas, la città più artificiale del pianeta, però vabbè, ci siamo legati perché Hunter S. Thompson, Fear and Loathing in Las Vegas. I've never been to Vegas, man. I mean, I really want to go. I wonder if I'll ever be, if I'll ever be able to go. Se sarò mai in grado di andare. Insomma, non penso nel 2020. Allora, molto importante, allora, Instacart, i gig workers, cioè i precari dell'e-commerce, oltre ai riders, delle deliveries, sono in agitazione da diversi anni, in Inghilterra e in America, così come in Italia, in Francia, Germania, ma in America ovviamente l'estensione della gig economy è più pronunciata e Instacart è un servizio che fa fare ai precari la spesa per te e te la porta a casa attraverso la app. Già avevano fatto uno sciopero di successo prima del Covid e adesso stanno progettando un massiccio sciopero nazionale. Dal momento che la Grocery Delivery Company, la compagnia di consegna della spesa, si è rifiutata di offrire ai 120.000 gig workers che lavorano i precari che lavorano sulla sua app le protezioni e un'indennità di malattia. Quindi watch out for Instacart strike. Niente, qui c'è appunto il flyer di Radio Virus, ogni giorno la programmazione, a me seguirà DJ Scatter e vabbè, spero non si arrabbi, ma rivela la sua identità perché lui è il regista, produttore, factotum, vero animatore di Radio Virus, nonché Dan Salvini. Radio Virus è nata dal Giro di Macao, ma aspira a diventare un media milanese tutto tondo. Quindi Radio Virus, la radio milanese, la radio covidica. E allora, qui si torna al discorso del trade-off fra libertà e controllo. Qui c'è un articolo della storica liberale Anne Applebaum, che è uscito anche su Internazionale. Lei è una specialista di storia del Gulag, e ci dice descrive come le epidemie nella storia hanno favorito il governo autoritario, da Venezia a Elisabetta I, insomma, come dire, da quando esiste Hobbes, la teoria hobbesiana dello Stato, quando esiste l'assolutismo. L'assolutismo si è rafforzato grazie al controllo epidemico. Nota per esempio come in Ungheria Orban si è arrogato il diritto di governare per decreto senza dover convocare l'assemblea parlamentare, e come si rischia anche che Trump possa avvantaggiarsi di questa crisi. Per ora non sembra, però è anche vero che il $2 trillion package, cioè il pacchetto fiscale di sussidi alle imprese ma anche ai lavoratori, e che copre anche alcune categorie di precari, di sicuro è una misura keynesiana di qualche tipo. Bisogna vedere se, come dire, sarà sufficiente a proteggere Trump dall'impopolarità e soprattutto dalla maniera disastrosa in cui ha gestito la crisi, avendo già di fronte non solo l'esempio della Cina ma anche quello italiano. E niente, qui un bellissimo articolo di Paul Preciado, un autore transgender, un autore femminista molto interessante. Di sicuro, forse uno, leggendo questo pezzo, si rafforza in me questa impressione, uno degli intellettuali che saranno con noi in questo ventunesimo secolo che è iniziato veramente adesso, purtroppo. E lui, che si è ammalato a Parigi l'11 marzo, ne è appena uscito, racconta la fine che fa l'amore, il suo amore e l'amore in generale nella società del Covid. Purtroppo niente sarà come prima, è triste dirlo, soprattutto per una persona che è ormai oltre la 50 come me, che ha vissuto gran parte della sua vita prima nella libertà di viaggiare, di girare il mondo, anche se, dico la verità, dalla grande recessione a questa parte ho viaggiato molto meno, sia per ragioni economiche, e poi soprattutto dopo Trump non ho più voluto andare negli Stati Uniti. Comunque, tutti i bambini che piccoli che vengono al mondo, o sono già qua o vengono al mondo in questo momento, sono ormai parte di una nuova generazione, una generazione post-virale che l'Atlantic Monthly ha battezzato Generation C. C'è un giornalista di Stanford molto bravo a coprire l'epidemia, quindi è così. Niente, che altro c'è? Stavo dimenticando questo evento ecologista, la Earth Hour, che vabbè è sempre stato un po' farlocco. Comunque è un evento che si fa dal 2007, patrocinato dal WWF, per cui alla stessa ora in tutto il mondo, in Italia alle 8:30, si spengono le luci, e quindi l'idea è di far vedere dal satellite il pianeta oscurato. Ma insomma, quindi vabbè, io penso di farlo, non lo so, perché voglio tenere in vita assolutamente il sogno climattivista che ha preso una bella botta dal Covid, il Covid che probabilmente ha contagiato Greta che però è sulla copertina di Rolling Stone di aprile, quindi è un numero monografico molto bello che leggerò, e niente, il Fridays for Future è andato online, e vediamo come sarà il futuro di questo movimento che aveva cambiato il mondo. Di sicuro la recovery dovrà essere green, ma se non facciamo niente non lo sarà, quindi tutti in campana. E niente, e qui dopo Trump che voleva riaprire a Pasqua, c'è Renzi che vuole aprire il 28 marzo, un pazzo, vabbè, ormai è al fiere Confindustriale, vabbè. Però ce l'ha messo lui Mattarella, bisogna dire. Mattarella che ci ha fatto il discorso del barbiere, insomma, e fa capire che la situazione è davvero grave. È lui che vuole Draghi primo ministro, bisogna vedere se ci riuscirà. E certo, se continua così. Allora, anche se la curva sta rallentando, sto cazzo di picco, non so, bisogna chiedere agli amici dell'APE, che loro ne sanno di quando si arriva alla vetta. Quindi, chiusure in Italia per il coronavirus, accetta la proroga per altri 15 giorni, l'ipotesi a cui lavora il governo è confermare la chiusura totale dei divieti di spostamento per altre 2 settimane. Valutando alcune minime deroghe per le aziende. Occhio! Ecco, dalla Basilicata, appunto, un tweet allarmato. Prima eravamo solo zona rossa petrolifera dove si moriva di cancro, ora non frega un cazzo a nessuno. E non fregava un cazzo a nessuno. Ora che siamo zona rossa, Covid-19, non frega ancora un cazzo a nessuno. Basilicata, la zona rossica, zona rossa, Tricarico e Irsina. Lancet, con New England Journal of Medicine, massimo periodico della scienza medica, dice: Lancet, gestione del governo britannico, scandalo nazionale, Boris Johnson è positivo. Gori, che aveva gestito male, come sa, all'inizio l'epidemia, che però, bisogna dire, è stata vicino alla sua gente, si è dato da fare, insomma, dopo che ha visto quello che gli stava succedendo, adesso cerca di ritornare un po' in auge, associandosi alla protesta di altri sindaci lombardi, e nota che appunto la regione Veneto ha acquistato un nuovo macchinario e arriva a fare 13.000 tamponi al giorno. E chiediamo alla regione Lombardia di fare altrettanto, vanno fatti i tamponi ai malati sintomatici e, se positivi, ai loro familiari e contatti. Quindi Macron, la famosa intervista, Francia al fianco dell'Italia, basta, UE, egoista. Berardi continua il suo diario bellissimo, va detto, cronaca della psicodeflazione, bellissimo, non tutto quello che scrive Bifo è fantastico, ma questo è veramente fantastico, questa è la seconda puntata, vi invito a cercarlo. Niente, i verdi europei, soprattutto i verdi tedeschi, stanno cercando di far pressione sulla Merkel, i verdi italiani e gli altri partiti verdi, il Partito Verde Europeo è l'unico vero partito federale, cercano di salvare il salvabile, ma vediamo, io sono un po' pessimista perché sinceramente non ho mai visto una disunione tale. Ancora Vina Dubal che dice: quando sarà finita ricordatevi di chi vi ha consentito di farcela. I lavoratori del supermercato, i raccoglitori della frutta, i guidatori delle consegne, i lavoratori dei magazzini. E ricordatevi che queste persone fanno fatica ogni giorno a sopravvivere in un contesto che non è di emergenza. Figuratevi quindi adesso, perché noi non diamo valore ad essi o ad esse e al loro lavoro, soprattutto ad essi e al loro lavoro. Niente, qui rispondo a una casa editrice anarchica sulle cause dell'eccessiva mortalità lombarda e nulla, insomma, il fatto che notiamo fin dalla prima puntata di come gli ospedali siano vettori, spargitori di Covid. Oggi è la prima pagina, il titolone di cronaca locale del Corriere. Incendio bizzarro al Palazzo di Giustizia, se qualcuno ha informazioni riservate, chi abita in zona 5 giornate, 22 marzo, Porto Corsi, Porta Vittoria, perdon. Incendio al Palazzo di Giustizia a Milano, ormai la topografia non andando in città si inizia a dimenticare, va a fuoco l'archivio del Tribunale al settimo piano. Cosa c'era in quei files? L'India in lockdown e quindi le scimmie del tempo non si possono nutrire, questa è una photo opportunity di babbuini che mangiano l'anguria, una delle poche immagini dolci e divertenti in questi giorni. Fontana, penso che la linea di contagi stia iniziando la discesa, è buon pro ci faccia. E comunque ne dovrai rispondere Fontana, ma soprattutto ne dovrà rispondere Gallera, che vuole diventare il sindaco di destra. Sì, anche il consigliere speciale del governo britannico, uno dei massimi epidemiologi mondiali, è stato confermato positivo. Ah, bellissimo, da Extinction Rebellion Canada, una foto di un giardino di una casa suburbana con un T-Rex che porta un cartello dove c'è scritto Extinction sucks, stay home. L'estinzione fa cagare, quindi ovviamente i dinosauri ne sanno qualcosa. Loro è stato il meteorite, boh, speriamo che per noi non sia il virello, ma direi di no. Ce la dovremmo fare, è più probabile che sia il capitalismo fossile a fotterci come specie. Niente, Haymarket Books che ha diversi ebook gratuiti. Haymarket, vabbè, commemora il 1886, il primo maggio, la nascita del primo maggio in America, socialista internazionale, una casa editrice socialista americana, e quindi ti regala, ma solo per pochi giorni, quindi sbrigarsi, Eco-socialism, a radical alternative to capitalist, e non si vede più, to capitalist catastrophe, scusate ma c'era la cosa che non riuscivo a leggere. E quindi mi sembra un libro appropriato, anche se è uscito dopo la grande recessione. Ecofemminismo, ecosocialismo, questi sono gli approcci per ripartire da un punto di vista egualitario dopo questo disastro. Nulla, che altro possiamo dire? Ecco, che Radio Virus è aperta alla partecipazione, proponeteci programmi, abbiamo intenzione di fare una programmazione 24 ore 7 per tutta la durata della quarantena ed oltre. Quindi non siete timide, non siete timidi. Per esempio Off Topic, che hanno fatto un bellissimo articolo di data analysis dell'epidemia a Milano e in Lombardia, se volete fare un programma qui siamo. E un saluto ai rifugiati a Lesbos, ai 50 operai in quarantena del ponte di Genova e soprattutto seguite Naomi Klein, la profetessa che dal 2001 ci indica la strada. E viratevi, e viratevi, e viratevi. Adesso DJ Scatter, ma prima The Clash. Ciao. Never knocked. Every job they offer used to keep you up the dock. Career opportunity, the one that never knocked. I hate the army and I hate the RAF. I don't wanna go fighting in the jungle. I hate the seven savage boom. I won't open that bomb for you. Career opportunity, the one that never knocked. Every job they offer used to kick you off the dock. Career opportunity, the one that never knocked. Oi! Oi! Oi! Oi! Oi! Bus driver! Ambulance man! The dickies is breakthrough! Don't understand! They're gonna have to introduce conscription. They're gonna have to take away my prescription. Never knocked. Every job they offer used to kick you out the door. Career opportunity, the world had.